بالصبونوس 35 minuti. Liturgia antica del Knesset, Knesset Dagmarov fala il Beos Tassalik. Et a Knesset for Knesset, Knesset Titkanta, Dagmarov fala angustia possedit me, u indicat ricibni, indicat hakimi. Se ne sema hir combina il composizioni del canonco Manuel Michalev, l'organista ua Carmelo Costa, tenor, il lumer tirat per ov fuce de Lohafna, ua Franz Pisan. Bene, tenuto avanti Franz Pisani, accompagnato dal maestro, l'organista Carmelo Costa, composizioni Kinet del canonco Manuel Michalev, li semalcom angustia possedit me. Franz Pisani, che è accompagnato nel quartet fal, dal basilica da Birkirkara Santa Elena. Ande bici a sciol ora tra gli stessi tenuti, però non è già il mai conosci chance di lì insieme a Hilcom. E ne ciò io ho sapere via e due si te u col lì che ne composizioni del canonco Lorenzo Fenech l'organista da Bovra che in Carmelo Costa e te se le menha balli andi hofna sciol io e tu hofna ari schnab Hilcom mai conosci chance di lì in conista insieme a Hilcom. Lì nuova e se bonos.